Linee d'ombra di Matteo Caccia. Per me è stata la dimostrazione di come dei professionisti nel momento della necessità sono capaci di concentrarsi al 100%, anzi al 200%. Dal momento dell'arrivo in ospedale tutto assume una velocità supersonica e si sovrappongono eventi terrificanti e fantastici. Storie di un giorno diverso e di uno scherzo della BBC in una puntata che si intitola Sembrava uno scherzo. Lei ha clacsonato. Tu ha clacsonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede? Terapia tapioco. Rematurata la supercazzola o scherziamo? Prego. No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Pefalina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro. Un centrometta. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego. No, attenzione. Basta, ne sono faltati. Secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no... posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Che dopo... succede, Paolini? No, nulla, buongiorno signor Necchi. Buongiorno. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ammettetelo, quanti di voi, almeno una volta al giorno, in questi giorni, quando si svegliano la mattina, oppure quando guardano un telegiornale o quando ascoltano un giornale radio, anche della nostra radio, o vedono una notizia su internet, quanti di voi non hanno pensato questo è un brutto scherzo, stiamo vivendo in uno scherzo, cioè qualcuno ha deciso che vuole prendersi gioco di me, vuole prendersi gioco di noi. Io ci penso almeno una volta al giorno, e il fatto che oggi sia il primo di aprile da una parte ci fa sperare che stiamo lentamente andando verso la fine di questo brutto scherzo, perché tutto è cominciato agli inizi di marzo. I tempi, è vero, non si sanno con precisione, però la speranza di tutti, anche se taciuta, anche se sopita, è quella che magari con l'arrivo della primavera inoltrata le cose lentamente possano tornare a una qualche forma di normalità. Sì, sembra un brutto scherzo tutto quanto, e la puntata di oggi si intitola esattamente così: sembrava uno scherzo. Vi raccontiamo delle storie che, per quanto diverse a modo loro, sì, sembrano uno scherzo, perché la prima storia arriva da Nizza, arriva dal luglio del 2016, arriva dal 14 luglio del 2016, da quella notte in cui tutti quanti ci siamo accorti come alle porte di casa nostra potessero succedere delle cose terribili, quando sulla Promenade des Anglais di Nizza un camion si è lanciato contro la folla che stava guardando i fuochi di artificio. La storia ci arriva proprio da là, e ci arriva da una nostra ascoltatrice che si chiama Floriana, che è un medico che si trovava là perché aveva cominciato a lavorare a Nizza da poco. Lei lavora in pediatria, ma si è trovata ovviamente a fare quello che moltissimi medici stanno facendo oggi, cioè si mettono a disposizione anche se non sono specializzati in quella cosa lì, semplicemente cercano di fare al meglio il loro lavoro e quello che hanno imparato. La seconda storia invece è letteralmente uno scherzo. Non sembrava uno scherzo, è proprio uno scherzo, ed è uno scherzo che è molto interessante perché è fatto da qualcuno che ha una grande autorevolezza. Sapete che si dice ci sono un sacco di barzellette che non fanno ridere a meno che tu non sia il presidente di un grande paese e la stia dicendo davanti a delle persone che ti stanno ascoltando. Quindi probabilmente se sei il presidente della Repubblica Italiana o se sei il presidente degli Stati Uniti e dici una barzelletta, è difficile che le persone non ridano, perché tu hai quella autorevolezza che ti permette di dire una barzelletta che non fa ridere e fa ridere le persone. Ecco, in questo caso uno scherzo banale, che magari fatto da me o da Paolino Corleoni di là dal vetro può non far ridere, se viene fatto da un emittente, da un editore come la BBC, che trasmette in prima serata in un suo telegiornale un servizio in cui si dice che in Svizzera si coltivano gli spaghetti sulle piante, beh, quello scherzo può non sembrare così banale, soprattutto perché dice che certo, in Svizzera è poca roba, ma gli spaghetti che si coltivano sulle piante in Italia sono molto, molto più buoni. Mettetevi comodi, preparatevi al solito piccolo viaggio che vi permettiamo di fare ogni giorno attraverso le storie. Benvenuti a Linea d'Ombra. Ho finito di studiare. Azzanno finalmente la mia meritata insalata di pomodorini multicolori, feta e cetrioli comprati al supermercato sotto casa. Mi sono trasferita a Nizza da un mese e mezzo. Per ora sono da sola. Marito, figlie, cani e gatto mi raggiungeranno a settembre. Nonostante i miei 55 anni, ho deciso di realizzare il sogno di continuare la carriera di radiologo pediatra qui, in Francia. Al momento è dura, è molto dura. Al corso di francese, in Italia, studi, sei brava e pensi di essere pronta, ma sul campo tutto cambia. Così ogni sera, dopo il lavoro, inizia il secondo lavoro, lo studio. Devo convertire tutte le mie competenze e le mie conoscenze in un'altra lingua e in una diversa struttura, ma ce la farò, sto migliorando. Mentre mangio, ho davanti a me il tablet, la TV ancora non ce l'ho. Sono connessa a Facebook, al gruppo Italiani a Nizza. Tento di mettermi in modalità zen e di rimanere qui a casa. Oggi è la mia prima reperibilità, qui in Francia, per questo motivo sono nel mio appartamento, altrimenti sarei fuori, sarei in promenade, a vedere i fuochi artificiali del 14 di luglio. Ce la farò a cavarmela, se per caso mi chiamano, mi domando. Per la prima volta sarò da sola, senza l'aiuto dei miei colleghi. Ancora mi capita di non capire tutto quello che mi dicono e di essere lenta nello scrivere le risposte. Il mio cervello matematico non è predisposto per le lingue e faccio una fatica pazzesca, però la voglia di farcela prevale. Per me, che di natura sono velocissima e faccio il radiologo pediatra da 28 anni, è una grande sfida affrontare questa partenza da zero. Spesso è umiliante non poter esprimere quello che hai dentro perché ti mancano le parole o non capire le sfumature dei discorsi, e io amo le sfumature. Sono andata lì per cercare una nuova avventura, per trovare un'altra realtà, per sperimentare se ero in grado di fare qualcosa di più, di lavorare in un altro ambiente, in un'altra lingua, eccetera. Io lavoravo in un istituto scientifico dove mi sono occupata di ricerca per tutto quel tempo e non sono riuscita a trovare nessun riscontro per lavorare di più, e quindi ero esasperata da questa cosa e quindi ho preferito, a un certo punto me ne sono andata perché proprio era impossibile lavorare come io avrei voluto. I post del gruppo Facebook intanto stanno aumentando. Deve essere accaduto qualcosa. Dicono che c'è un movimento di persone in città, persone che corrono dal lungomare verso l'interno, ma nessuno sa che cosa stia accadendo. Io abito in una leggerissima periferia, nel quartiere arabo, qui tutto è tranquillo. Pare però che ci sia stato un grave incidente sulla promenade. Immediatamente penso, data la mia momentanea lentezza, che è meglio andare a vedere, non si sa mai che ci sia bisogno di me fuori in ospedale. Preferisco essere pronta in anticipo. Quando scendo in strada per inforcare la mia Vespa, la situazione si rivela molto più preoccupante di quanto pensassi. Arrivo in ospedale, di norma ci metto 10 minuti, ma adesso le strade sono completamente bloccate. Tutti hanno preso le macchine per tentare di allontanarsi dalla città e in più oggi è festivo e rispetto al solito ci sono tantissime persone in giro. Per la prima volta in vita mia decido di fare la piratessa della strada, anche se in realtà non so ancora cosa sia accaduto, ma un sesto senso mi guida e faccio tutto il tragitto non sulla strada, ma sul marciapiede. I let the beast in too soon, I don't know how to live without my handless throat. I fight him always and still. Oh darling, it's so sweet, you think you know how crazy I am. You say you don't speak easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. I may be soft in your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you in. Prove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Il mantra che mi recito in continuazione durante il viaggio è: ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Anche se mi domando come da sola sarà possibile, la notte c'è un solo medico radiologo in servizio su chiamata, sono io. Dal momento dell'arrivo in ospedale, tutto assume una velocità supersonica. Si sovrappongono eventi terrificanti e fantastici. Terrificante, ad esempio, è che nello stesso momento siano arrivati in ospedale, che è un ospedale pediatrico, tantissimi pazienti, portati là a braccia o nei bagagliai delle macchine, senza ambulanza, senza triage. Infatti, l'ospedale pediatrico si trova a pochissimi metri dal luogo dell'incidente, proprio sulla promenade. Non solo bambini, ma anche adulti. Tanti, molto, ma molto gravi. Alcuni non sopravviveranno. Non si può descrivere quello che si è visto, che resterà per sempre dentro di noi. Meraviglioso invece è stato trovare là gran parte del personale medico, tecnico e infermieristico, arrivato spontaneamente, senza essere stato chiamato. Questo ha reso l'efficienza incredibile. Il lavoro di squadra ha confermato l'affiatamento di tutti quanti. Tutti quelli che erano a Nizza si sono presentati immediatamente, sono arrivati spontaneamente, senza essere chiamati. Sia i tecnici che i medici. Questo è stato tutto merito dei social o della comunicazione interpersonale. Tra l'altro bisogna dire che a Nizza, siccome appunto c'era stato il problema degli europei, c'erano stati gli attentati di Parigi, loro si erano preparati veramente tanto all'eventualità di un attentato, ma come sempre quando si fa una preparazione teorica ci sono i punti deboli. Lo avevo percepito in questo mese di rodaggio. Ho percepito anche una professionalità non comune, considerata la giovanissima età dei colleghi. La paura si è trasformata in calore e per la prima volta nella mia vita ho sentito che cos'era veramente il lavoro di equipe e come insieme si possa moltiplicare in maniera geometrica l'efficienza. In realtà per noi tutto è durato molto poco. Alle 4 del mattino era finito, ovvio. Un attentato produce il danno in un singolo momento e quel danno va affrontato immediatamente. Abbiamo spremuto le meningi e messo in opera strategie per migliorare la gestione che, in tante riunioni fatte prima, in Francia ci si preparava intensamente a questa eventualità, purtroppo, in tutte quelle riunioni non erano venute in mente a nessuno. In pochi minuti ci siamo resi conto che tante procedure organizzative studiate a tavolino erano fallite, mentre le nostre menti, irrorate d'adrenalina, ovviamente con un background solido, avevano prodotto insieme un ottimo risultato. Rientrando a casa, in Vespa, due sentimenti vorticavano nel mio cervello stanco. Il primo è stato la consapevolezza che da sola niente avrei potuto fare. L'altro invece è stata la soddisfazione. La gioia profonda nell'avere visto questa sorta di unione spontanea di anime e di cervelli. E questa mi è sembrata una meraviglia cosmica, una sorta di messaggio che confermava di aver avuto ragione a far passare la mia vita per quel posto. Alle 4.30, mentre albeggiava, sono andata a letto per recuperare un paio di orette di sonno, ma alle 5 mi hanno chiamata per una comune urgenza e stavolta sarei stata da sola. Wanna wake up and know where I'm going. Say I'm ready, wanna go where the rivers are overflowing. I'll be ready, I'll be ready. I'm ready to let the rivers wash over me. I'm ready to let the rivers wash over me. If it's love flowing freely, I'm ready, I'm ready. If the waters can redeem me, I'm ready, I'm ready. I'm ready to let the rivers wash over me. Wash over me. Ooh, yeah. Ooh. Si intitola la puntata di oggi "Sembrava uno scherzo". L'abbiamo messa non a caso perché siamo proprio delle volpi a cui non sfugge niente oggi che è il primo di aprile, e abbiamo scelto due storie che di fatto in maniera molto diversa sembrano uno scherzo. La prossima storia che vi racconteremo è uno scherzo a tutti gli effetti, è uno scherzo che ha effettuato la BBC ai propri telespettatori molti anni fa. La prima storia invece no, la prima storia che ci ha raccontato Floriana non era affatto uno scherzo e lei ce l'ha fatto capire praticamente sin da subito. Pronto, ciao Floriana, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai tu, Floriana, in questo periodo, in questo momento della tua vita e in questo periodo difficile per tutti? Abbastanza bene, anche se abbastanza preoccupata anche. Senti, tu non vivi più a Nizza, giusto? Sei tornata in Italia? Sì, adesso sono ritornata a Trieste, sì. Ci sono stati vari motivi per cui sono dovuta rientrare. Ah, ok. Ero molto contenta a Nizza, comunque. Ti piaceva, sì? Sì, moltissimo. Però io, vabbè, sarà che ho un debole per Trieste, quindi diciamo, in questo momento chiuso in una casa di Milano, non so. Invidio il tuo stare a Trieste, anche se insomma non so dove abiti e so che immagino che anche tu sia così chiusa in casa, quindi non fa molta differenza. Ma vedo il mare dalla mia finestra comunque. Qualche differenza la fa. Tu continui a essere medico, giusto? Sì. Sono un medico radiologo pediatra prevalentemente, anche se mi occupo attualmente anche degli adulti, però il mio lavoro è il radiologo pediatra. Senti, perché in questo momento anche a Trieste i medici sono stati precettati per l'emergenza Covid? Ma diciamo che in ospedale tutto viene gestito dall'ospedale prevalentemente. Io adesso non lavoro più in ospedale, lavoro sul territorio. Okay. E personalmente sto cercando di garantire nel mio piccolo le urgenze a livello del territorio, perché tutti gli esami non urgenti sono stati ovviamente bloccati. Chiaramente. Io vorrei cominciare proprio da un passaggio del tuo racconto che ha a che fare con quello che è accaduto a Nizza, ma tutto sommato ha a che fare anche con questo periodo, no? Perché tu dici, parli della spontaneità con cui i medici si sono recati quel giorno in ospedale, medici o insomma personale sanitario si sono recati in ospedale senza essere stati chiamati e senza essere obbligati a farlo. Sì. Questa cosa è successa quel giorno, continua a succedere, tu lo vedi intorno a te tra colleghi e persone con cui lavori? Sì, sempre. Questo direi che succede sempre, almeno dalla mia esperienza, ma penso e si vede anche, succede ovunque. E lì probabilmente, essendo tutto il personale molto molto giovane, mm-hmm. Erano forse più avvezzi all'utilizzo dei social. Ah, e quindi avevano saputo prima. Esatto. Quello è stato fondamentale in quel caso là, i social. Senti Floriana, non è stata una grande fortuna arrivare a Nizza e dopo un mese e mezzo trovarsi in una situazione così, o sbaglio? Era la prima guardia che facevo, la prima reperibilità notturna festiva che facevo, quindi è stato proprio un battesimo del fuoco vero e sì, proprio. Infatti mi hanno preso in giro, mi prendono in giro ancora a Nizza per questa cosa. Senti Floriana, in un'emergenza come quella, che è chiaramente completamente diversa dall'emergenza che stiamo vivendo adesso, che è di lungo periodo, speriamo non lunghissimo, esatto. E che continua tutti i giorni, in quell'esperienza come quella dove tu dici di fatto dura il tempo di una notte, no? Una persona sì. Che fa il tuo mestiere riesce a mantenere il controllo e a non farsi prendere dal panico, dalla paura o dalla situazione in sé? In questo caso è successo proprio così, è successo che tutti hanno dato davvero il meglio, hanno dato proprio l'impressione di una concentrazione estrema, e quindi questo è quello che a me ha colpito particolarmente, anche perché appunto erano tutte persone molto giovani, lì normalmente l'età media dei lavoratori in ospedale è molto molto molto bassa, e quindi erano tutti giovanissimi, concentratissimi ed efficientissimi, e questo mi ha colpito e mi resterà sempre. Ed erano anche addestrati, bisogna dire, perché loro si erano addestrati molto, infatti quello secondo me è fondamentale. Io adesso faccio parte del gruppo della medicina delle catastrofi per motivi ovvi, certo. E devo dire che ho imparato di cose, cioè ho imparato veramente che l'addestramento in queste cose è fondamentale. Che cos'è la medicina delle catastrofi, Floriana? Ma è un gruppo, sono di gruppi nazionali e internazionali nei quali stanno persone che ho conosciuto, medici dell'FBI, della CIA, dei servizi segreti, militari, eccetera, eccetera, che si occupano proprio della parte organizzativa. Infatti io spero che siano stati convocati quanto prima anche in Italia, perché la loro vision di queste emergenze è totalmente diversa da quella che può essere la vision di un buon padre di famiglia, diciamo, certo. Che magari lo fa con il cuore. E loro veramente ottenere un sacco di cose. Intanto che a Nizza, dopo l'incidente, sono state rimesse a posto i protocolli che erano stati fatti con molto impegno, proprio con l'aiuto anche di queste persone qua, che sono state in grado proprio di, insomma, sistemare un po' le cose in modo da renderle più efficienti. Senti, in che modo lo hai raccontato a casa a tuo marito? Tu hai un figlio, giusto? Ho due figli, una che vive a Nizza, che è lì adesso, che è rimasta là, certo. E l'altra che è rientrata a Trieste con noi. E vabbè, io ero da sola, quindi loro erano tutti a Trieste quella volta, e quindi non ho raccontato niente. Ho detto va tutto bene, tranquilli, arrivederci, finito. Poi il giorno dopo gliel'hai detto. Sì, poi ne abbiamo parlato un po' il giorno dopo, però diciamo che la cosa importante per loro era che io non fossi là, anche perché se non fossi stata di guardia sarei stata sicuramente a vedere sulla promenata, certo, come tutti quelli che erano quella sera. L'ultima cosa, Floriana, poi ti saluto e ti ringrazio. Tu a un certo punto dici la sanità francese è diversa da quella italiana. In che modo lo è? Cioè, è proprio un'organizzazione diversa. Okay. Hanno una specie di mutua che tutte le persone pagano a un costo molto basso, per cui ha un'organizzazione... Ma che definiresti migliore? Forse anche sì. Okay. Forse. Okay. Io credo, sono dell'idea che è molto bello, io ho viaggiato abbastanza, che è molto bello andare nei vari paesi e copiare, tra virgolette, le cose che funzionano. Gli altri hanno fatto bene. Certo. Sarebbe interessante che girando si riuscissero a raccumulare un po' tutti i pezzettini che funzionano meglio. Insomma, c'è da imparare anche da là. Chiarissimo. Floriana, ti ringrazio davvero tanto per la chiacchiera, per la storia e anche per le cose che ci hai detto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Grazie mille, in bocca al lupo per niente, tutto. Figurati. Grazie a presto. A te, grazie. Ciao, Floriana. Ciao. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. My music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Ooh. Ooh. E ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Sembrava uno scherzo e dopo la storia terribile di Floriana e dell'attentato sulla Promenade des Anglais del 2016 a Nizza, andiamo completamente da un'altra parte, raccontando quello che avvenne il primo di aprile del 1957, all'ora di cena, in tutte le case del Regno Unito. La protagonista è la BBC. Seguiteci lungo le linee d'ombra. È l'ora di cena. Nelle case inglesi quasi tutti i televisori sono accesi sul telegiornale della BBC, uno dei più autorevoli e prestigiosi al mondo. In chiusura di telegiornale viene trasmesso un servizio di quelli che si definirebbero di costume, società, stili di vita. Le immagini spaziano su un lago su cui risplende il sole, rami pieni di fiori appena sbocciati, insomma, la primavera, nel pieno del suo fulgore. La voce del servizio ci spiega poi che siamo nel sud della Svizzera, vicino all'Italia, in un posto che si chiama Canton Ticino. Here in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual. Ma il motivo per cui la BBC è arrivata fino in Svizzera non sono i fiori che colorano le piante, ma una specie molto particolare di frutti che, grazie all'inverno molto mite, sono cresciuti su alcune di queste piante. Quei frutti sono spaghetti. Spaghetti cultivation here in Switzerland is not of course carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Many of you, I'm sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. Il documentario della BBC ci tiene a sottolineare che la coltivazione degli spaghetti in Svizzera non è certo paragonabile a quella italiana. Lui stesso asserisce che sicuramente i telespettatori inglesi avranno visto alcune immagini delle incredibili e vastissime coltivazioni di spaghetti nella Valle del Po. Nel Canton Ticino la coltivazione si limita a soddisfare le esigenze familiari e in alcuni casi a produrre spaghetti a sufficienza per il fabbisogno di piccoli ristoranti. Round and round like a pizza pie, Gina, Gina, you and I. Hey paisano, twist Italiano, hey bambino, drink a little vino. I took a trip to Italy, and what do you think I saw? Well, everybody was doing the twist from 9 to 9 to 4. And when Gina shakes her hips, the boys all twist and shout. Hey, paisano, twist Italiano. Hey, dalla presa, twist like a fraser. Gira qua e gira là, ma Jimbo twist a così si va. Hey, paisano. Chubby Mozzarella, and when he starts to do the twist, the girls begin to yell. And when I went to Venice town, I saw the strangest sight. Gondoliers were twisting round and singing through the night. Hey paisano, twist Italiano. Hey calabrese, twist like a Nonostante l'assurdità della cosa, una grande parte degli inglesi che videro il documentario credettero alle parole del cronista e le chiamate che giunsero in redazione furono centinaia. Charles De Jager era un cameraman della trasmissione Panorama, originario dell'Austria, e fu lui l'ideatore dello scherzo. Lui ricordava che quando frequentava le elementari, il maestro prendeva in giro gli studenti dicendo loro che avrebbero creduto che gli spaghetti crescessero sugli alberi, per esemplificare la loro stupidità. Partendo da questo ricordo, egli chiese di potersi recare sulle Alpi in Svizzera per riprendere la gente del posto intenta a raccogliere gli spaghetti che erano il frutto dei propri sforzi di coltivazione. La BBC accordò un budget di 100 sterline a Charles, che partì alla volta di Castagnola, sul lago di Lugano, nel Canton Ticino. Qui girò il documentario usando come alberi delle piante di alloro e appendendo degli spaghetti umidi, ma non cotti, ai rami. Gli attori protagonisti del video erano lavoratori locali e vengono mostrati mentre si recano, a fine raccolto, al ristorante Taddei, dove gli spaghetti vengono cotti e conditi con salsa di pomodoro. Tornato a Londra con il girato, De Jager chiese al conduttore di Panorama, e voce nota e conosciutissima del pubblico inglese, di doppiare lui il filmato. Lui acconsentì, rendendo lo scherzo credibile al di là di ogni sospetto. Durante il parlato il conduttore spiegò che gli spaghetti sono difficili da coltivare e che gli agricoltori devono fronteggiare il rischio di ghiacciate che possono danneggiare il raccolto. La lunghezza degli spaghetti, che è simile per ogni pezzo, è inoltre definita da un lungo lavoro generazionale svolto da indefessi coltivatori di spaghetti. Per aggiungere un tocco di realismo, ma soprattutto un'atmosfera idilliaca mista tra l'Italia e la Svizzera, le musiche del filmato furono Spring in Ravenna di Hans May e A Napolitan Love Song. All'epoca gli spaghetti e tutta la pasta in generale non erano cibi comuni in Gran Bretagna, anzi venivano considerati un cibo esotico. Anche se la maggior parte delle persone era consapevole che la pasta non è qualcosa che cresce su un albero, centinaia di persone che videro la trasmissione chiamarono la BBC per avere maggiori informazioni sulla coltivazione degli spaghetti. Le centraliniste della BBC risposero con molta ironia e aplomb che per coltivare gli spaghetti era necessario mettere un pugno di spaghetti in una scatola di salsa di pomodoro e sperare per il meglio. Molti domandarono anche informazioni su come piantare e coltivare gli spaghetti. Lo scherzo fu tenuto segreto anche all'interno della BBC, tant'è vero che l'allora direttore generale della rete, Sir Ian Jacob, pare abbia detto ad un suo collega che quando aveva visto il servizio, aveva detto a sua moglie: «Non credo che gli spaghetti crescano sugli alberi». Poi cercarono sull'Enciclopedia Britannica e si stupirono che l'enciclopedia nemmeno citasse gli spaghetti. Lo scherzo dell'albero degli spaghetti è stato definito dalla CNN come il più bello scherzo che ogni azienda di notizie abbia mai realizzato. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lolan, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follia in Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Lola in Detroit, Jean. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non piange insieme a me in Detroit. Lolan, pazzie che non farò mai più. Ricordi che notti di follia in Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola, in Detroit, shibidi-shibidi-yabow. Questa storia l'abbiamo trovata cercando appunto questo documentario della BBC dedicato agli spaghetti. Se avete voglia di vedere le immagini, se avete voglia di capire come è stato costruito questo breve servizio che di fatto ha preso in castagna tutti gli inglesi che l'hanno visto in quegli anni, andate online e cercate BBC Spaghetti e vi esce immediatamente questo piccolo reportage. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato. Quando hai scelto di cambiare le cose. Quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. I diari dalla quarantena sono ormai uno dei cuori pulsanti dei nostri racconti da ormai un paio di settimane, perché vi stiamo chiedendo di mandarci, oltre alle storie che ci mandate abitualmente, anche le storie delle vostre quarantene, cioè quello che succede all'interno delle vostre case in queste giornate molto molto difficili. lineedombra@radio24.it. Ne stanno arrivando tantissimi, basta veramente una pagina o mezza pagina e noi è come se sbirciassimo dalla serratura della porta di casa vostra. Ma appunto non tutti stanno a casa, perché non tutti possono permettersi di stare a casa. Molti fanno dei lavori che li obbligano ad uscire e noi li ringraziamo, perché sono i lavori che spesso e volentieri ci permettono di stare tranquilli a casa nostra. Uno di questi lavori è il lavoro del farmacista e la prossima storia, la storia di Elena, è proprio un diario della quarantena di un farmacista. Mi chiamo Elena, ho 53 anni, sono una farmacista. Abito vicino a Saronno e lavoro nella farmacia di un paese qui vicino, in provincia di Como. Non possiamo definirci in prima linea, ma anche nelle retrovie il lavoro non manca. Le persone sono abbastanza disciplinate. Abbiamo chiesto di non avere all'interno più di 3 persone contemporaneamente, di mantenere le distanze e loro rispettano le indicazioni, anche se magari fuori litigano per la precedenza. Il via vai però è continuo e il telefono suona ogni 5 minuti, se va bene. Abbiamo affisso un cartello con scritto mascherine esaurite in consegna nei prossimi giorni, anche per evitare alle persone di fare la fila inutilmente. Abbiamo spiegato decine di volte che stiamo aspettando la consegna, che non ci hanno dato una data precisa, ma niente da fare. 2 su 3, specie per telefono, ti chiedono comunque: le mascherine le avete? Noi ne abbiamo recuperata una per ciascuno e ce la teniamo tutto il tempo. Tra l'altro, se volete scoprire il calore del vostro respiro, indossarne una è un ottimo sistema. Così come per i guanti di lattice, che si appiccicano alle mani. I medici hanno deciso, giustamente, di ricevere i pazienti solo su appuntamento e solo per situazioni urgenti, per evitare di affollare la sala d'attesa. Quindi, per molte persone, il punto di riferimento più accessibile siamo noi farmacisti. Ogni tanto qualcuno ci ringrazia, anche con un po' più di fatica stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro. Gli eroi di questa storia sono ben altri, ma fa comunque piacere sentirsi apprezzati. Questa situazione surreale mi ricorda, e non solo a me, il duello di magia della spada nella roccia, non so se ve lo ricordate, dove l'enorme drago Magò viene sconfitta dal germe Merlino. Proprio come adesso, l'uomo, che si credeva infinitamente potente, tenuto in scacco da un virus. Un po' come se la natura volesse pareggiare i conti. Se non fosse per la drammaticità del momento, la situazione avrebbe anche dei lati positivi. Ad esempio, girare in macchina in questi tempi è fantastico. Strade sgombre, meglio di così, solo una sera in cui giocava la nazionale. Farmacia a casa in 9 minuti netti. E poi decine di parcheggi liberi, manco a Ferragosto. Stamattina mi tornava in mente il visone sulla pelle, dove Doris Day, corteggiata dal milionario di turno, si trovava a viaggiare da sola sull'aereo di lui e ogni tanto si divertiva a cambiare posto. La via della farmacia, che costeggia il bel parco cittadino dove si trovano anche le scuole, di solito è piena di auto e trovare un parcheggio è un'impresa, ma adesso è libera per almeno 2/3. Non avevo mai visto il mio paese adottivo così calmo e silenzioso. Ovviamente mi mancano i consueti ritmi della mia vita e tutti gli impegni extra lavoro, il coro, il teatro, gli incontri, ma ho la vaga sensazione che almeno di tanto in tanto questo stato di sospensione, in qualche modo, mi mancherà. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started.

Grazie, grazie davvero ad Anna Maria per le sue storie, per la sua storia seriale, grazie per le vostre storie, grazie per stare a casa, se riuscite a stare a casa, grazie se riuscite a lavorare perché siete costretti a farlo, perché magari il vostro lavoro serve a tutta quanta la comunità. Lentamente ne usciremo, noi continuiamo a raccontare storie e voi continuate ad ascoltarle. Linee d'ombra @radio24.it, grazie ad Anita Panizza, grazie a Paolino Corleoni, Mauro Pescio, Luca Micheli, tutta la redazione di Radio 24 che ci permette di continuare a fare questo programma nello stesso modo, con la stessa qualità, anche se ognuno da casa propria. Ora la linea al GR, noi torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per stare su e per conoscere il mondo. Viva!